Rádio Fujiko 103.100 FM. Via Marconi 40. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Erasmus Plus. Sempre qui da Barcelos in compagnia di Ilaria ed Elisa dagli studi numero 2 di Radio Cavado. La puntata di oggi ha un nome un po' strano, si chiama Un Simbalino, che potrebbe sembrare una tipica espressione portoghese, invece ha una radice molto italiana. È praticamente il modo in cui loro qui chiamano il caffè. Il tutto prende le radici da una cosa molto semplice, che era una delle prime macchine espresso che furono importate qui in Portogallo, era la Cimbali. Quindi questa marca, che esiste ancora in Italia, fu tradotto con la loro pronuncia Cimbali, e quindi Simbalino. Balino, cioè un piccolo caffè che usciva da quella macchina. E da questa curiosità, diciamo, alimentare, passiamo un po' alla storia. Non abbiamo parlato ancora per niente di Barcellona. Le nostre reporter crossmediali partono col loro piccolo commento. A te, Elisa. Barcelos è una città del Portogallo situata nel distretto di Braga. Si trova lungo il percorso portoghese che da Lisbona porta a Santiago de Compostela. Questo paese fa 123.000 abitanti circa e ha una superficie di 379 km quadrati. Quindi vediamo che viene sottolineato molto il fatto che si trovi su un cammino storico, quello di Santiago de Compostela. Vediamo lungo tutta la strada e ovunque troviamo simboli cristiani molto molto marcati, e questi, diciamo, percorsi di fede attraverso i pellegrinaggi. Parlando appunto della fede, della storia del Portogallo, ho fatto caso molto alla storia del gallo di Barcelos. È una leggenda ed è legato a uno dei simboli non ufficiali del Portogallo, che appunto è un gallo nero col corpo tutto variopinto e una cresta rossa. Questa leggenda narra che un mercante giunto a Barcelos fu accusato ingiustamente di omicidio e fu condannato alla forca, e appunto lui, disperato per questa cosa, chiese di poter incontrare il giudice per chiedergli la grazia. Ma questo giudice stava facendo qualcosa di particolare, era a cena e stava mangiando che cosa? Questo giudice stava mangiando il gallo, e dato che il mercante non aveva niente a cui fare riferimento, se lui avesse detto la verità, questo gallo si sarebbe svegliato e si sarebbe messo a cantare. E di fatto questo gallo poi, secondo la leggenda, si è svegliato, ha iniziato a cantare ed è diventato uno dei simboli di tutta la tradizione portoghese, non solo di Barcelos. Quindi un simbolo di fede al momento e anche un simbolo di buon auspicio per tutti coloro che vanno in tribunale, quindi per dimostrare la loro innocenza. Il gallo quindi fa parte anche della tradizione alimentare, ma non di quella più antica. Cosa succede, Elisa? Dal punto di vista alimentare ci sono i grandi pascoli, le zone boschive rappresentano l'habitat ideale per la selvaggina, una grande fonte di cibo, e anche l'agricoltura. Molto importante è anche l'oceano Atlantico. Ma non solo dal punto di vista alimentare, l'oceano Atlantico lo ritroviamo anche i surfisti. Questo è considerato, in Portogallo vi sono molte zone considerato proprio il paradiso dei surfisti, sia per il tipo di vento sia per le onde che sono altissime. Quindi abbiamo molti raduni internazionali qui in Portogallo per quanto coltivano questo hobby, questo sport. Invece l'Atlantico dà tanto tanto pescato, ma oltre ai molluschi cosa troviamo, diciamo, nella tradizione? I crostacei, i buoi, le pecore, i cervi, i maiali e i cavalli. Quindi questa è la parte storica, che addirittura è stata ritrovata come reperti archeologici per quanto riguarda gli alimenti utilizzati in tutto il Portogallo e non solo in questa zona, partendo dal Neolitico fino alle popolazioni celtiche che occuparono il Portogallo nel 600 avanti Cristo. Poi arrivarono appunto anche i Romani, ma con la cristianità arrivò quindi anche il gallo come tradizione alimentare, come appena detto la tua collega. Tra la tradizione appunto portoghese si trova anche la zuppa, che io non apprezzo molto, ma rimane comunque uno dei piatti fondamentali della tradizione portoghese. Quindi abbiamo il pesce in genere, che occupa una posizione abbastanza importante. Piatto forte cos'è? Il pesce conservato, che è il baccalà. Il baccalà, per come lo preparano qui in Portogallo, ho provato delle sensazioni diverse rispetto a quelle che provavo quando l'ho assaggiato in Italia. Però abbiamo, oltre al baccalà, abbiamo anche il tonno e il pesce spada, le sardine, le aragoste, i gamberetti, i granchi, i polpi e anche le anguille, i naselli e il branzino, che poi sono anche pesci che troviamo anche nelle nostre zone italiane. C'è una salsiccia particolare che viene servita assieme a patate fritte o uova fritte, insieme anche alla carne tritata, e contiene al suo interno una grande quantità di aglio triturato. Questo piatto porta con sé una storia particolare. Nel XV secolo il re Emanuele ordinò che tutti gli ebrei residenti in Portogallo si convertissero al cristianesimo o lasciassero la penisola, e la maggior parte della comunità ebraica rifiutò di lasciare il paese e il re fu costretto a convertirli attraverso un battesimo di massa forzato. Nonostante ciò, la maggior parte degli ebrei continuò a professare la propria religione in segreto, cercando di mantenere in pubblico un comportamento e un'immagine di buon cristiano. Quindi scopriamo che anche attraverso questa salsiccia il battesimo obbligatorio sembra quasi un'affermazione blasfema, ma per oggi credo che possa bastare questa pillola alimentare, dopo il simbalino. Arrivederci.